7. Ascolta e controlla. 1. Dammi questo libro. Dammelo adesso. Non darmi questo libro. Non darmelo adesso. 2. Abbi sempre voglia di cercare la verità. Non avere sempre voglia di cercare la verità. 3. Fermati a casa e riposati. Non fermarti a casa e non riposarti. 4. Dimmi le informazioni che hai. Dimmele adesso. Non dirmi le informazioni che hai. Non dirmele adesso. 5. Vieni a prenderci in macchina. Non venire a prenderci in macchina. 6. Vattene subito. Non andartene subito. 7. Sii sempre presente. Non essere sempre presente. 8. Spediscigli quei disegni. Spediscigli ora. Non spedirgli quei disegni. Non spedirglieli ora.